La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua puntuali come ogni sabato a raccontarvi tutto il cinema che c'è, o quel che resta del cinema, potremmo dire, in questo periodo difficile, reso difficile dall'emergenza coronavirus. Insomma, inutile spiegarvi che ovviamente, lo abbiamo detto anche settimana scorsa, anche il cinema paga la sua tassa, come tutta la società, come tutto il mondo, rispetto a questa emergenza. È stata una settimana altalenante, si veniva dalla chiusura totale nelle giornate precedenti, si è arrivati poi a un decreto che ha raccontato un po' quella che deve essere l'approccio in questo momento. Per certi momenti si è pensato che potessero essere chiusi tutti i cinema, tutti i teatri per tutta la settimana, esattamente come le scuole e le università. Poi invece, andando a leggere bene nelle pieghe del decreto, si è capito che i cinema nelle regioni non rosse, chiamiamolo così, nelle regioni non Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, dove rimangono chiusi ancora da decreto fino a metà marzo, si poteva invece andare, ma ci si poteva andare con le famose misure di contenimento. Quindi il punto della situazione è questo: i cinema sono aperti, quelli che riescono ad applicare le misure di contenimento in tutte le regioni d'Italia, tranne le zone rosse, i focolai e appunto le tre regioni suddette, ma sono aperti con grandi limitazioni di posti, con il fatto di tenere le distanze, appunto, quindi i sedili vengono venduti, le poltrone vengono vendute tipo una sì, due no, una sì, una no, una fila sì, una fila no. Questo è chiaramente un compito che incombe sull'organizzazione delle singole sale cinematografiche, che però applicano questo tipo di situazione. Pare che debbano applicare anche una vigilanza che non è facilissima, ovviamente. Però insomma, i cinema in quelle città, praticamente nel 70% del territorio e del mercato italiano, sono aperti. Qualche film addirittura ne ha approfittato per uscire proprio in questo fine settimana, magari anche approfittando della mancanza di alcuni colossi, leggi per esempio Carlo Verdone, che avevano annunciato il rinvio dell'uscita. E allora è stata anche una scaletta, come sa la nostra Laura Faggin dall'altra parte del vetro, che mi ha aiutato durante la settimana a tenere le fila di questa puntata. È stata una scaletta che è cambiata quasi continuamente, quasi ogni giorno. Siamo arrivati però a questo punto. I film ci sono, noi ne parliamo, ma vogliamo anche parlare di quello che non c'è, di quello che poteva esserci, di quelli che sono i danni oggettivi che questa situazione ha portato al cinema. E per fare questo ho in collegamento un amico, è un collega validissimo che analizza fortemente il mercato cinematografico, come Stefano Radice, che saluto. Ciao Stefano. Ciao Franco, buongiorno. Stefano Radice, buongiorno. Attualmente il responsabile di una bellissima rivista di cinema che voglio consigliarvi, che si chiama Storie, è una rivista mensile stampata molto molto bene, molto elegante, che racconta appunto le storie del cinema, ma che insomma ha un passato fra box office, best movie, che ha raccontato proprio invece molto l'industria. Un uomo che conosce bene le pieghe dell'industria e del mercato cinematografico. Allora, dicevamo, al cinema si può andare prendendo le distanze, come facevamo da bambini prima dell'ora di ginnastica. Però chiaramente il mercato sta subendo momenti molto molto difficili, gli incassi sono diventati veramente poco indicativi. In questo, Stefano, può essere veramente importante e indicativo questo fine settimana, giusto? Sì, è corretto. Questo fine settimana sarà importante per capire se questo andamento molto difficoltoso, di timore anche che hanno le persone ad andare nelle sale aperte, si possa lentamente invertire, perché se ci saranno dei segnali tendenzialmente positivi, sono confidente che poi settimana prossima i film che in questo momento sono posizionati in uscita, dopo se vuoi li citiamo, e che sono abbastanza interessanti, possano poi effettivamente uscire e contribuire a mantenere aperti i cinema e aperta l'attenzione verso l'andare in sala. Insomma, questo è un po' l'auspicio che tutti noi abbiamo e che anche gli operatori hanno, quelli con cui abbiamo parlato in queste settimane davvero molto complicate. Anzi, è proprio un appello vero e proprio che facciamo noi qua dalla Rosa Purpura, in questo nostro segmento del cinema, dentro la grande famiglia di Radio 24. L'atteggiamento ovviamente è di grande prudenza, di grande attenzione a quello che ci consigliano gli scienziati, però ecco, non siamo più realisti del re. Nei cinema dove si può andare a quelle condizioni, andiamoci a quelle condizioni. E quindi i film ci sono, dicevi, elencali velocemente, perché poi ovviamente nella Rosa Purpura ne parleremo di alcuni di questi in maniera anche approfondita. Tra l'altro ci sono anche film molto belli e alcuni film che hanno appunto anticipato addirittura l'uscita a questo fine settimana. Sì, guarda, intanto mi stai chiedendo le uscite di settimana prossima e velocissimamente ti posso citare Arctic, un film per le famiglie, Un amico straordinario con Tom Hanks, I miserabili, film che a Cannes quest'anno è stato una rivelazione. Poi abbiamo anche Honey Boy con un grandissimo Shia LaBeouf, il suo film biografico, o Gli anni a mare, un altro biopic molto interessante. Insomma, le proposte ci sono. È importante che questo fine settimana, con titoli come Volevo nascondermi, Queen Slim, Marie Curie, L'horror, The Grudge, dia qualche segnale e sono convinto che settimana prossima potremo contare su titoli interessanti, ma è importante la risposta del pubblico. Assolutamente. I esercenti e i distributori ce la stanno mettendo tutto. Assolutamente. Non si può dire niente. E non è neanche semplice tenere aperti i cinema in queste condizioni, sì, oggettivamente, sì, perché è un carico che va tutto, al di là di quello economico, va tutto sugli esercenti. Volevo nascondermi, Buñuel nel labirinto delle tartarughe, Picciridda, come hai detto tu giustamente, anche Marie Curie, film anche questa settimana, dicevamo, ce ne sono, fra poco ne parleremo. Un'ultima cosa, Stefano, ci sono anche purtroppo set che dovevano essere set di grandi film internazionali, quindi grandi movimenti anche economici, che dovevano essere girati in Italia, che sono saltati per colpa appunto di questa emergenza. Ce ne puoi raccontare qualcuno? Guarda, il titolo più clamoroso in questo momento è chiaramente 007, il 25esimo film della saga di James Bond. Doveva uscire ad aprile e i produttori, su pressione anche dei fan, preoccupati di non riuscire a vederlo perché c'è il timore del coronavirus, c'è il timore che le sale in tutto il mondo possano subire delle limitazioni o delle chiusure, hanno deciso di spostare il film a novembre. Questo ha creato un buco sul mese di aprile e soprattutto apre una domanda: cosa faranno i produttori di altri film importanti che sono previsti in aprile, tipo, non so, anche La Vedova Nera, mi viene in mente. C'è molta molta attesa, bisogna cercare di capire. Abbiamo vissuto e visto nelle scorse settimane il film Pixar Onward, che doveva uscire a marzo e adesso è posizionato coraggiosamente ad aprile. Siamo in attesa di capire se ci saranno altri spostamenti. Tu citavi prima per l'Italia il film di Verdone, anche quello è un caso emblematico, un film molto importante che adesso deve essere posizionato, e io sono convinto che quando sarà posizionato, quando troverà una data, vuol dire che siamo usciti da un momento molto difficile, certo, e che il cinema ha ripreso. Sarà un grandissimo segnale di incoraggiamento. Certo, e assolutamente, tra l'altro potrebbe aspettarci, sarebbe bello pensare che ci aspetti una primavera, una tarda primavera e forse anche un'estate ricca di titoli, anche spostati da questo momento, e che finalmente possano essere visti. Ricordo quel che dicevo però, Stefano, anche sul fronte dei set, per esempio Mission Impossible, produzione enorme che portava grandi capitali anche nelle zone dove veniva girata, Venezia, Roma, tanto per dirne due, scappata letteralmente dall'Italia. È scappata dall'Italia, così come, anche se non è arrivata una conferma da Netflix, che è il produttore, anche questo Red Notice, con due attori importantissimi come Gal Gadot e The Rock, no, è anche Ryan Reynolds, tre attori importantissimi, doveva essere girato in Italia e sembra che questo non accada. Certo. E allora, grazie a Stefano Radice, responsabile della rivista Storie. L'appello è appunto: andate al cinema. Abbiamo parlato del cinema che non c'è o che non ci sarà. Adesso, dopo la viabilità, cominciamo a parlare di quello che c'è nelle sale e che si può andare a vedere fra poco. Silvio, che fai? Ah, ciao Ivana, scusami, sono un po' impegnato. Ma dai, cos'è sta storia ora? Dai che dobbiamo andare a correre. No, oggi no, guarda, la 4 a buca all'angolo. Ti ricordo che ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 parliamo di running, di corsa, di atletica, di triathlon. Lo so, però è la 12 al centro e quindi? Per parlare di corsa bisogna correre. Scusa, il biliardo non vale? No, non vale, devi correre, nuotare o pedalare. Tu comunque sottovaluti il biliardo, è tutta una cosa di testa, concentrazione, gesto. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 all'interno di Passione Domenica su Radio 24. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, seconda parte della Rosa Purpura. Come detto, fatto il punto sulla situazione emergenziale che ha attanaglia anche il settore del cinema, noi andiamo a raccontare il cinema, davvero tutto il cinema che c'è, come dice il nostro motto, perché alcuni film molto importanti sono arrivati comunque in sala in questa settimana. Un film che addirittura ha anticipato i tempi di uscita al 3 marzo, addirittura al mercoledì, reduce dall'ottima accoglienza ottenuta al Festival di Berlino, dove ha vinto anche il premio Elio Germano per il migliore attore protagonista è Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, il ritorno di un autore molto importante del nostro cinema, su un personaggio che strappa il cuore letteralmente, come la figura di Antonio Ligabue, il pittore emiliano, che già era stato reso grande dal compianto Flavio Bucci in uno sceneggiato che tutti quelli che hanno la mia età ricordano perfettamente. Allora ascoltiamo questa clip, questo momento nel quale viene fuori tutta l'arte istrionica di Elio Germano, ma anche tutta la personalità del pittore Antonio Ligabue. Beh, è un autoritratto, l'ho finito ieri. Sembra un po' quel pittore olandese. In effetti. Ci sono anche altri soggetti. Sì, sì. Il mio preferito sono gli animali. Viv? Perché lei cavai in bisogni, visto che questo è un film, fa in bisogni i cavalli. Viv? Qui sopra i cavalli non c'è la pioggia. Insomma, i cavalli è più mio. Insomma, mi hai rispetto. Rispetti. E quanto costano? Quanto costa? Comprate una motocicletta. Straordinario momento di Volevo nascondermi, film presente in tutte le regioni d'Italia tranne appunto Lombardia, Emilia e Veneto. Lo potete andare a vedere in numerose sale cinematografiche, quasi 200, 194 cinema lo programmano, e noi abbiamo in collegamento Boris Sollazzo per farcelo un po' raccontare. Ciao Boris. Buongiorno a tutti, buongiorno Franco. Allora Boris, Volevo nascondermi, grande successo a Berlino, premio Elio Germano, una figura come quella di Ligabue che riesplode dopo 40 anni probabilmente dal precedente passaggio che ci è rimasto nella mente. È un film secondo me che ci riconsegna anche un autore come Giorgio Diritti a una narrazione un po' più popolare, posso dire, un pochino più vicina a qualcosa che possa arrivare in maniera forte al pubblico. Sì, pur mantenendo la sua firma, secondo me questa stagione così strana, così sfortunata e allo stesso tempo, se uno la vede in controluce, anche interessante, ci ha restituito tanti autori, da Totens a Giorgio Diritti, che facendo cose che non sembrano loro riescono a renderle ancora più personali. Io devo dire che ci sono poche cose che mi creano la sindrome di Stendhal, una di queste sono le opere di Ligabue, l'altra sono le interpretazioni di Elio Germano, e quindi in questo caso io sono vicino all'orgasmo cinematografico inevitabilmente. Elio Germano è straordinario in questo film, va detta come prima cosa, non per togliere nulla a Diritti, che sicuramente ha il pregio di sceglierlo, ha il pregio di dirigerlo benissimo e di sfruttarlo al meglio, ma perché siamo in presenza veramente di un campione della sua professione. Ricordiamo che insomma a Berlino e Cannes, che io ricordi, ha vinto solo Volonté, per intenderci. E il film è pazzesco, soprattutto a vederlo in questo momento storico, perché è un film in cui la sofferenza fisica è al centro di tutto. È un film che doveva uscire il 27 febbraio, poi doveva uscire a fine marzo, poi è anticipato, è entrato pienamente nell'atmosfera coronavirus e tra l'altro, diciamo, in qualche modo si sta affidando del suo pubblico come faceva Ligabue. È un film che porta bellezza in un momento in cui non lo è, esattamente come faceva, in cui non c'è bellezza, esattamente come faceva Ligabue, con queste opere piene di colori, esplosive, che venivano però da un uomo che invece era imploso, contratto anche fisicamente dai suoi problemi fisici. E tutto questo Germano lo racconta perfettamente, lo fa anche Diritti, che è vero che fa una narrazione più popolare, più classicamente biopic, ma riesce a firmarla con tutto il cinema che noi gli abbiamo visto fare in precedenza. Dentro Germano, se vogliamo, c'è Jasmine Trinca, c'è Il vento fa il suo giro, c'è tutta la cinematografia di Giorgio Diritti, che è fatta di sensibilità, di particolari, di fortissimi contrasti sia visivi sia narrativi, e trova sicuramente in Elio Germano forse un alter ego perfetto. talento del suo cinema, nel senso che anche Germano riesce incredibilmente a essere tutto il contrario di tutto. Era inevitabile che potesse farlo solo lui, Ligabue, e che potesse in qualche modo toglierci dalla testa la grande interpretazione di Bucci. Anche qui, coincidenza pazzesca, a pochi giorni dalla morte di Bucci arriva questo film nelle sale, che era un'interpretazione iconica, la spazza via Germano in una maniera straordinaria, probabilmente anche attingendo al lavoro che aveva fatto per Il Giovane Favoloso, dove c'era un altro artista che era stato in qualche modo punito dalla natura e allo stesso tempo premiato con un talento immenso. Ne esce fuori un film che è il più classico dei film da festival, e quindi per questo viene premiato e per questo è bellissimo, ma che è un film straordinariamente popolare, in questo molto simile a quello con Bucci, cioè un film che ha una capacità di penetrazione visiva nell'immaginario e narrativa che è rara per un autore e per un film d'autore di questo tipo. E io direi di sfruttarlo, anche se a un metro l'uno dall'altro. In questo momento è un po' come reagire al terrorismo, bisogna reagire con la vita, e lo stesso vale per la malattia. Stando attentissimi, mandatelo a vedere, perché in così tante sale non riavremo più un film così bello, e meritiamo di consolarci da questo momento difficile con la bellezza del cinema, e in questo caso siamo in presenza, secondo me, di uno dei film che configurerà in tutte le top ten di questo 2020. Volevo nascondermi di Giorgio Diritti con Elio Germano, il Germano che con questa interpretazione, dopo aver fatto Leopardi, ricorderete, insomma, è anche un po' in atto, se vogliamo, un bellissimo dualismo con Pierfrancesco Favino rispetto all'interpretare personaggi storici recenti o passati, vista la doppietta Buscetta-Craxi recente di Favino. Ma sono due attori di cui dobbiamo andare molto molto orgogliosi, molto diversi fra di loro, ma veramente molto molto bravi. E quindi volevo nascondermi il nostro consiglio della settimana. Noi però anche in tempo di coronavirus non dimentichiamo il nostro DVD game e giochiamo insieme con la prima traccia del nostro film misterioso. Tu hai scelto di farmi questo. La cosa contro cui stai lottando è la paura. Sfruttala e sconfiggila. E allora, se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Due Blu-ray che vi aspettano di questo film. Fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Adesso andiamo avanti, c'è un film molto interessante che arriva dalla Spagna, che fonde l'animazione d'autore, diciamo così, quella alla Persepolis, tanto se per farvi un esempio recente, con un tema molto molto adulto e addirittura molto cinematografico. Il film si intitola Buñuel nel labirinto delle tartarughe. Questa volta non lascerò che nessuno resti indifferente. Attirerò l'attenzione, ma sul serio. Tu, il re del surrealismo che fa un documentario. Perché no? Se a Natale vinco alla lotteria, te lo pago io, il documentario. Questo sì che sarebbe surrealista. C'è una chiamata dalla Spagna. Luis, sono io, Ramon. Ho vinto alla lotteria. E allora, è una storia bellissima, tra l'altro estremamente vera, perché questo film è anche biografico, tra l'altro, pur essendo in animazione. Louis Buñuel, giovane, si trova in un momento difficile dopo che L'Âge d'Or, il suo film manifesto del surrealismo, ha scandalizzato tutti i benpensanti di Francia, e praticamente in Francia non riuscirà più a lavorare. È un momento di grande crisi, lui sente moltissimo anche, tra l'altro, la pressione intellettuale di Salvador Dalí, con il quale comunque non riesce a evitare il confronto, appunto, in termini intellettuali. Un amico vince un giorno la lotteria con un biglietto della lotteria e decide di destinare i suoi soldi al prossimo dei progetti di Louis Buñuel, quello di un documentario, L'Assurdes, che è tutto imperniato su un villaggio iberico totalmente abbandonato a se stesso, dove si vive praticamente in maniera primitiva. Sarà un viaggio e sarà un film davvero indimenticabile per la vita e per la crescita di Louis Buñuel. Boris, due minuti per raccontare questo film, che è un po' un unicum in un certo senso, perché biopic animato d'autore allo stesso momento. Ma parafrasando al contrario Hitchcock, si potrebbe dire che la vita di Buñuel è il cinema senza le parti noiose, perché davvero quello che non si è raccontato sulla sua esistenza reale e non sullo schermo è quasi più bello di quello che si è visto sullo schermo, e parliamo di uno dei più grandi autori della storia del cinema. Questo per farvi capire quanto ci sarebbe da raccontare su quest'uomo. benissimo, il regista ha una intuizione incredibile. Nella vicenda meno surrealista della carriera e dell'esistenza di Buñuel, anche più difficile, meno potente a livello narrativo, si inventa questa docu animation, un po' di finzione, un po' no, che sembra una scommessa di quelle del Buñuel a perdere, perché sembra impossibile immaginare di raccontare un documentario sul cinema, su un set, sul racconto del lavoro del cinema, anche della durezza del lavoro del cinema, sulla sfaccettatura di un uomo che è straordinariamente sensibile al problema degli altri e poi comunque diventa anche cinico sul set, diventa anche antipatico sul set. È un qualcosa che si immagina dover essere assolutamente consegnato a un cinema del reale, magari ruvido, magari molto realista, e invece, trattandosi di Buñuel, è proprio l'animazione il luogo in cui raccontare tutto questo, in cui far andare avanti anche la fantasia nel modo più realistico possibile. Ne esce fuori un oggetto che è difficile anche da definire, un oggetto cinematografico bello però, che ti avvicina a un uomo che inevitabilmente anche anagraficamente è molto lontano, ma che ha condizionato in positivo tutto il cinema mondiale, senza il quale probabilmente non avremmo tutta una serie di generi e tutta una serie di idee che poi sono venute, e anche di coraggio che hanno avuto altri autori smossi dalla sua follia, dalla sua incoscienza e dalla sua genialità. Ed è degno erede questo Simo, che decide di fare questo progetto impossibile, gli riesce benissimo, e in un momento come questo forse il coraggio è anche farlo uscire in sala e vederlo. Questo non è un film convenzionale, Ramon, questa è la realtà pura e nuda. Questi ultimi giorni sono stati molto illuminanti. È una stranezza del signor Buñuel. Questo è un insulto. Cominci a vedere il mondo in un altro modo. Dovremmo essere venuti qui per cambiare le cose, per aiutare questa gente, non per andare in giro a giocare a fare gli artisti. Questa messa in scena si addice più a Dalí che a te. Tutto assume un significato diverso. Settimana con due folli della cultura europea come Antonio Ligabue e Louis Buñuel. Belle anche queste due storie, veramente molto particolari. Buñuel, Nel labirinto delle tartarughe, 47 sale cinematografiche, il che vuol dire che sempre tranne le tre regioni sopracitate, insomma, il film si trova, andatelo a cercare perché ne vale veramente la pena. Pubblicità adesso, fra poco torniamo insieme. Un altro film in uscita che ha anticipato la sua uscita è Queen Slim, ne parliamo fra poco. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22.30 e la domenica alle 14 su Radio 24. La rosa purpurea. Hai fatto una playlist? Che carino che sei. Non toccare il mio telefono. Come finirà la serata? Immagino che mi riaccompagnerai a casa e te ne andrai. Oh. Tu pensavi che avremmo fatto sesso? No. No, voglio dire... No. Non ha messo la freccia prima di svoltare. Mi dispiace. Scenda dalla macchina. Posso chiederle perché? No, non può. Mani dietro la testa, in ginocchio. Fa sul serio? In ginocchio! Perché è in arresto? Torni in macchina! Sono un avvocato! Rienza, sto prendendo il cellulare! Ehi, siete voi? Dobbiamo andarcene, adesso. Siamo su tutti i giornali. La mano femminile, quella che c'è dietro Queen and Slim, di cui avete sentito questa clip che apre la terza parte della Rosa Purpurea, Melina Mazzucas, un film con Daniel Kaluuya e Jodie Turner Smith, presentato al Festival di Torino, dove ha ottenuto un'ottima accoglienza e ha ottenuto anche qualche candidatura a premi, diciamo come Directors Guild, per esempio. Un film che sposa un pochino una atmosfera alla Thelma Louise, se vogliamo, anche se qui si tratta di una coppia uomo-donna, che comincia appunto con una coppia di ex che si rivedono in un ristorante, vanno via insieme a un posto di blocco, come avete sentito nella clip, succede il patatrac, un poliziotto un po' troppo, come dire, su di giri in questa America con i nervi a fior di pelle, fa partire un colpo di pistola, gli risponde al fuoco il protagonista, e da lì le cose non saranno più le stesse per loro due, che diventeranno veramente una coppia in fuga da tutto e da tutti. Boris, un'opera prima che mischia molto bene dramma politico e appunto film più alla Thelma & Louise, se vogliamo, no? Che alla Bonnie and Clyde, se dovessimo dire delle coppie di in fuga nella storia del cinema. Ed è un film che forse, diciamo così, si concede qualche momento melodi troppo nel finale, ma che non rovina comunque la compattezza e la tensione di un'opera che comunque rimane e che ne fa un'opera assolutamente interessante e positiva. Recensione perfetta, perché è un esperimento interessante, nel senso che noi siamo abituati sugli afroamericani a vedere o capolavori che finiscono agli Oscar o film estremamente programmatici, spesso legal thriller che usano il genere come scusa per il cinema civile. E qui siamo più o meno da tutte e due le parti, perché da una parte c'è una grande invenzione, una grande capacità anche di costruire immagini e in particolare di racconto, e dall'altra anche l'uso del genere. Qui c'è il melodramma, c'è il buddy movie, c'è appunto Thelma & Louise, anche se gli americani hanno voluto raccontarlo come Bonnie e Clyde, ma Bonnie e Clyde seminavano morte. I due protagonisti invece di Queen and Slim cercano disperatamente la vita, cercano di riappropriarsi di qualcosa che gli è stato tolto. C'è qualche forse difetto in scrittura, sia nel finale sia forse nell'assenza di credibilità o parziale credibilità della reazione dei due, essendo lei poi un avvocato di grido, a quello che succede loro. Però dice anche molto del dramma che vivono gli afroamericani, i più controllati di tutti dalle forze dell'ordine, più maltrattati di tutte dalle forze dell'ordine, e viene in mente nel nostro caso Stefano Cucchi, per cui spesso poi ci si ritrova ad avere reazioni sbagliate per il semplice motivo che si ha paura di chi dovrebbe proteggerti. Il film è bello perché è popolare, è estremamente popolare, è anche molto pop, riesce ad appassionarti, anche se ogni tanto c'è qualche calo di ritmo, anche come film strettamente di genere, non, chiaramente mantenendo costantemente il suo clima da denuncia civile. Si vede che c'è una mano femminile sia in scrittura sia in regia, soprattutto da come è raccontata Angela, anche dal modo atipico in cui si inizia, no? Questo è anche un film d'amore che però inizia in una maniera più cattiva, anche perfida, quasi comica possibile, e devo dire che alla fine sì, è vero, forse da critici cinematografici dovremmo lamentarci un po' del melò finale, ma un film così pop, quel finale se lo merita, se lo va a prendere, cerca di smuoverti emotivamente, per la prima volta forse un film sugli afroamericani si rivolge a un pubblico vastissimo e non a un pubblico di convertiti, tra virgolette, di persone progressiste che vogliono in qualche modo sentirsi nel giusto. Quindi Slim è uno di quei film che può arrivare anche ai cuori di chi non potremmo non sospettare, e forse serve quel tipo di cinema, perché finché lasceremo nel ghetto dei film d'autore o dei film civili questo tema, probabilmente non riusciremo a farlo uscire dal ghetto delle nostre menti, e quindi film come questo possono essere più importanti di quello che si crede. E questo è allora il giudizio su Queen and Slim nei cinema italiani. Anche qui voglio dirvi il numero di sale, perché sono tante, sono 115, quindi un film estremamente reperibile in tutte le regioni d'Italia, tranne appunto le tre in cui i cinema sono chiusi. Boris, grazie, noi ci sentiamo la prossima settimana e speriamo di ritrovarci con tutti i cinema aperti, ma comunque noi siamo pronti a raccontare come sempre tutto il cinema che c'è. Grazie Boris. Alla prossima settimana e buon cinema. Giochiamo di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. So perché è bravo come te. Lui è te. Potendo clonare qualcuno, clonassero Nelson Mandela. Nelson Mandela non uccide un uomo su un treno a 2 chilometri. E allora, anche qui, se avete indovinato di che film si tratta, c'è già un qualcosa che ve lo fa immaginare, se già lo conoscete. La Rosa Purpurea, @radio24.it è il nostro indirizzo. Due Blu-ray vi aspettano, fra poco vi sveliamo l'arcano. Prima però ci dedichiamo a un nuovo film italiano che arriva nelle sale cinematografiche in questo fine settimana e si intitola Picciridda. Tu qua deve restare, che tua madre non ce la può fare con due picciriddi. Non come l'hanno chiesto. E dicevo, no, non voglio che partite senza di me. Io li odio. Nonna, ci sono zio Pino e Rosa Maria. Teresa, che non voglio che hai niente a che fare con Sembano. Io ci voglio bene e tu non ci puoi fare niente. Non t'azzardare, eh? Io certe volte mi arrabbio, è perché uno è cattivo e io voglio che tu ti fai una pelle dura. Se avete sentito la clip di Picciridda di Paolo Licata, tratto dal romanzo di Catena Fiorello, una storia ambientata a Favignana alla fine degli anni 60, che racconta appunto di una separazione di una bambina, Lucia, di 10 anni, con i genitori che partono a cercare fortuna in Francia, mentre Lucia rimane affidata a nonna Maria, una nonna dura, arcigna, che nell'autoritarismo vede la chiave per proteggere in qualche modo e far crescere bene la nipotina. Per questo nel paese è stata soprannominata la generala, ma la durezza di nonna Maria, una donna che fuma il sigaro la sera sul portico, sull'uscio della sua casa, scopriremo avere anche qualche radice più profonda, una radice brutta, cattiva, una spina dentro il cuore che deve essere tolta, perché altrimenti le cose non saranno mai normali. E Lucia, 10 anni, il viso aperto, fiero di fronte al suo futuro, anche a tutti i dolori che ha dovuto subire, sarà la chiave per uscire da questa situazione. Io saluto in collegamento Paolo Licata, il regista di Picciridda. Ciao Paolo. Sì, ciao a tutti, grazie per avermi contattato. Ah, guarda, l'abbiamo fatto perché il film ci ha convinto, ci è piaciuto. Devo dire, a partire da queste, voglio cominciare proprio da qui, da questa straordinaria bambina, Marta Castiglia, che sostiene il primo piano come poche bambine della sua età sanno fare e che secondo me ha davvero un futuro davanti. Sì, sì, beh, io sì, sono convinto che Marta ha tutte le potenzialità per diventare veramente una grande attrice, perché già da così piccolina è veramente una grande professionista, è nata professionista. Ho avuto appunto la fortuna di incontrarla e di scoprirla in qualche modo, anche se appunto lei viene comunque da 2 anni di scuola di teatro, ma guarda, sul set è andato tutto liscio anche grazie a lei, che ci faceva risparmiare tempo, perché quando recitava era sempre buona la prima. E beh, questo è molto importante. Senti, l'altra grande colonna è Lucia Sardo, nei panni di questa nonna meravigliosa, anche nella sua durezza, no? E però scopriremo quanto amore represso c'è dietro quella durezza. Beh, sì, sai, Lucia Sardo, chiaramente su Lucia Sardo non avevo alcun dubbio, perché è chiaro, quando ti affidi a una professionista, un interprete di questo calibro, non corri molti rischi in realtà. Lei è appunto alle spalle tanti anni di carriera ed è veramente un'attrice completa che può veramente, che penso che il cinema italiano abbia purtroppo troppe volte sottostimato, o quantomeno sottosfruttato in qualche modo. Assolutamente. Non l'ha usata come avrebbe potuto fare. Un'attrice capace di passare appunto da ruoli drammatici come questo a ruoli di commedia pura come Ma che colpa abbiamo noi, Amiche da morire, eccetera. Allora, però, veniamo un po' a questa storia, Paolo. Il libro di Catena Fiorello è stato un grande successo. Che cosa hai voluto tenere in termini di visione cinematografica? Cioè, mentre lo leggevi, lo vedevi già o hai voluto cambiare qualcosa? Ma guarda, mi hai tolto le parole di bocca. Sì, io in realtà mentre leggevo il libro proprio vedevo le immagini del film. E questo chiaramente succede soltanto quando l'autore del libro è veramente un grande artista che riesce, in questo caso una grande artista come Catena Fiorello, che riesce a dipingerti determinate situazioni in maniera così chiara che tu proprio le vedi mentre le leggi. Ecco Paolo, un film che ha una chiave molto molto intensa e soprattutto giocata sul non detto, e questo mi è piaciuto della tua regia. Invece una parte finale nella quale si esplode un po' di più, mi direi quasi l'azione, fammi dire, in un certo modo. Come mai hai voluto calibrare in questo modo? In linea di massima abbiamo comunque seguito la linea narrativa del libro. Quindi in realtà anche nel libro proprio la storia nella parte finale esplode. E abbiamo voluto mantenere la stessa struttura un po' nel film, però sì, chiaramente poi nel film, nella trasposizione, si cambiano alcuni particolari, alcuni personaggi, alcune situazioni. E in ogni caso mi intrigava l'idea di creare un film che parte piano e poi finisce forte, cioè l'idea appunto di un'escalation di emozioni. Certo. E allora Paolo, ricordiamo, una cinquantina di sale cinematografiche italiane in tutta Italia per Picci Ridda, Con i piedi nella sabbia. Grazie a Paolo Licata. Grazie a voi. Voglio che diventi una donna importante, una di quelle che fanno grandi cose. Ma perché ti chiamano così? Donna Maria. La parola donna prima del nome vuol dire che la rispettano. Certo ne se lo meritano, altri no. Io conosco il mio Ranne, pure così voglio essere chiamata. Nonna Lucia. Allora, Picci Ridda, un altro dei film che arrivano nelle sale in questo fine settimana. Adesso di nuovo linea alla viabilità, c'è un'ultima proposta cinematografica che ci faremo raccontare fra poco da Chiara Pizziventi, ed è la figura di una grande scienziata, quanto ce n'è bisogno in un momento come questo. Marie Curie, fra poco. Radio 24 vi accompagna in tutte le vostre passioni, ogni domenica pomeriggio con Passione Domenica, la domenica che ami vivere. Alle 14.30 Passione per gli altri, con Diario di un giorno di Cristina Carpinelli. Alle 15 Passione in viaggio, con Globetrotter di Valeria De Rosa. Alle 15.30 è l'ora della Passione in verde, con Il giardino segreto di Roberta Pellegatta. Alle 16 Passione in movimento. Si parte prima in bicicletta con A ruota libera di Alessandra Schepisi, poi di corsa con Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. E infine Passione in gioco con Dario Ricci in Olimpia. Alle 17 al via Passione in campo, con Carlo Genta, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano in Tutti convocati. E per chiudere alle 19, Gegè Telesforo e il suo soundcheck vi aspettano in Passione musica. Passione domenica con Radio 24. La domenica che ami vivere. Radio 24. La passione si sente. La rosa purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea, che si apre con l'ultima delle segnalazioni dei film in sala, delle novità in sala, un film che mette alla luce, porta alla luce la vita, la storia, soprattutto la storia professionale e sentimentale, che sono state molto legate in certi momenti, di una grande nome della scienza, della storia della scienza e dell'umanità, mi verrebbe da dire, quello di Marie Curie, due volte premio Nobel, tra l'altro, prima per la fisica e poi per la chimica. Ma una storia anche che ha molti molti aspetti vicini al contemporaneo: l'importanza della scienza, la difficoltà della scienza di essere indipendente, il ruolo delle donne, la voglia di emanciparsi e di poter correre da sole. Un biopic firmato da Marie Noël, anche qui una mano femminile, con atmosfere molto rarefatte e con una grandissima interprete come Carolina Gruschka. Ce lo facciamo raccontare da Chiara Pizzimenti. E se restituissimo il premio Nobel? Con tutti quei giornalisti alle costole non riusciamo più a lavorare. Il nostro radio emana luce dal cuore, come te. Si potrebbe dire che basta il nome, Marie Curie. La prima donna a vincere un premio Nobel, la prima persona a vincerne due, in due campi differenti, fisica e chimica. Già qui c'è tutto il film che si chiude in due parole, donna e scienziata. È in laboratorio all'inizio della pellicola, quando le vengono le doglie, sta per avere la seconda figlia e ha appena ricevuto il primo premio Nobel, dato al professor Curie e a Madame Curie. Sempre un passo indietro nella visione degli altri, perché donna... C'è stato un incidente. Voleva attraversare la strada velocemente ed è scivolato. Mio caro e adorato Pierre, un'altra giornata vissuta senza averti accanto. Saprò dimostrarmi degna di te. Fonderò l'istituto del radio come sognava Pierre. Voglio fare della crioterapia il miglior metodo curativo al mondo contro il cancro. Con il marito condivide vita privata e lavoro. Quando lui muore investito da un carro, lei deve sopravvivere al dolore personale e riaffermare il posto che le spetta nella comunità scientifica misogina e patriarcale. Lei, che ha lasciato la Polonia perché non poteva studiare, fatica a essere riconosciuta come docente in Francia, sempre perché donna. Non vuole l'insegnamento come titolo, perché illustre e vedova, ma per le sue competenze lavorative. Albert Einstein, Marie Curie. Lei è la migliore tra le donne. E anche tra gli uomini. La tua incoscienza mi spaventa. I francesi non dovrebbero sapere che lo Stato si appresta a consegnare un'alta onorificenza a una donna adultera? Mamma, non restare lì! È la conciliazione fra vita privata e lavoro che racconta questo film, allora come adesso, le difficoltà della scienza per le donne, con l'aggiunta del nuovo amore con Paul Langevin, fisico e matematico, sposato con figli. L'affaire Dreyfus non è lontano e lei diventa l'adultera ebrea. L'Accademia di Svezia le assegna il Nobel e insieme la invita a non andare a ritirarlo. Lei non obbedirà. Sono solo alcuni anni della vita di Marie Curie quelli raccontati, la parte per il tutto si potrebbe dire, perché l'intera esistenza della più grande scienziata di tutti i tempi è stata una lotta per affermare i suoi diritti e quelli delle altre donne. Tutta la restituzione degli eventi va in questo senso nel film di Marie Noël, già uscito negli anni passati in Francia, Germania e Polonia. È interessante ma non avvincente questa pellicola, con una bella fotografia, ma che solo una fotografia elegante rischia di essere. Buona l'interpretazione di Carolina Gruschka nel dare dimensione a quello che altrimenti risulta un lavoro didascalico. Marie Curie, quindi, da Chiara Pizzimenti. Noi a questo punto, esaurita l'ampia parentesi dedicata a tutto il cinema che c'è in sala anche in questo difficile fine settimana, parliamo di cinema da vedere in casa. Chiaramente molta gente i film se li sta vedendo, le serie TV eccetera se li sta vedendo sul divano comodamente, e noi cominciamo con il nostro DVD game di 7 giorni fa. Io volevo un figlio da te. È l'unica volta che non hai fatto attenzione. Eri ubriaco. Io ce l'ho già un figlio. È Vincent. E allora avevamo giocato con Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores, uno dei film più belli del cinema italiano di questa prima parte di stagione. Hanno indovinato per primi e riceveranno il Blu-ray Cristina Sassi e Ottavio, Cristina Sassi di Reggio Emilia e Ottavio Pilotti di Tortona. E allora dal nostro Giulio San Giorgio ci facciamo raccontare l'edizione in un video di Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores. Ciao Giulio. Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Vincent porta il nome di una canzone di Don McLean e solo a 16 anni incontra suo padre, cantante per matrimoni senza il becco di un quattrino. Con lui parte per un'avventura on the road, come già prima di loro tanti celebri ammaccati eroi di Gabriele Salvatores, qui interpretati da Claudio Santamaria e dall'esordiente veramente incredibile Giulio Pranno, con gran cast di contorno, Valeria Golino, Diego Batantuono. Se non potete andare in sala in questo periodo di pandemia, carestia di film, l'idea di affidarsi a Salvatore, regista nomade, sperimentatore di forme e formati inesausto, è forse una delle migliori idee che potete avere guardando al cinema italiano, in DVD e Blu-ray. E questo per quel che concerne il nostro game della scorsa settimana. Giulio, come sempre, anche un film pescato dai palinsesti della prossima, invece in chiaro, ed è un film, diciamo, molto molto film TV, proprio come filosofia. Martedì, Rai 4, 21:20, Una luna chiamata Europa. Un giovane siriano è ucciso a colpi di pistola mentre tenta di entrare in Ungheria, nel paese di Orban. Risorge e vola. Trama surreale per un film greve diretto didascalico a mano armata, piani sequenza, sonoro in presa diretta, realismo muscolare immersivo, per un film che veramente fugge nel fantastico e che è in tutto e per tutto un action militante, agguerrito e chiarissimo. Dicevano e vi diranno che è un film che non sa dove andare, che non sa cosa farsene del protagonista, ma no, è una parabola volgare e svergognata esattamente su questo, su un'Europa grottesca, furiosa e confusa, su un'Ungheria che mette limiti, che spinge, non sa accettare e immaginare nuove forme di vita e tantomeno di cinema. E allora ricordiamo l'appuntamento martedì 21:20 su Rai 4, Una luna chiamata Europa. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, e alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. Ed eccoci giunti quindi alla fine di questa nostra puntata. Ci restano alcune incombenze, come sempre quella principale è quella di svelare il film misterioso di oggi. Abbiamo giocato con Gemini Man, o Gemini Man come dicono quelli che ne sanno, comunque il film con Will Smith era il nostro film misterioso di oggi. I vincitori annunceremo la prossima settimana, quando ci ritroveremo, coronavirus o no, qui alle 18, come sempre, come tutti i sabati, a raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea.